Ebbene, sono le 11:02 primi, vediamo se riesco a collegarmi. No, è caduta a linea, mi sa. Pronto Fabio? No, ci sei. Perfetto, benissimo. Allora, ci colleghiamo quindi per questa giornata di lunedì. Oggi siamo in diretta il 19 con Fabio dagli uffici dell'Halifax. Penultima settimana di omaggi per i videogame e poi per la prossima ci sarà un sorpresone, sarà proprio l'ultima. Però per quest'oggi, caro Fabio, che cosa andiamo a proporre, regalare? Riproponiamo Viking, questa volta però per 360. L'avevamo regalato in effetti per PS3. Lo regaliamo per chi ha l'Xbox 360 e spieghiamo che tipo di gioco è questo Viking. Viking è un classico hack and slash all'arma bianca, avremo a disposizione una spada e un'ascia per combattere queste battaglie infinite. E in effetti ce ne sono molte con tanti personaggi che vengono mossi sullo schermo. Sì, infatti il motore grafico regge alla grande. Sono gli stessi sviluppatori di Total War, della serie Total War, sì, che questa volta si cimentano nell'universo vichingo. Esatto, l'atmosfera è decisamente proprio nordica, con sbarchi, attacchi di giorno e di notte, quindi si va, si parla con le persone e poi si crea il momento del cosiddetto agguato, della battaglia, eccetera, eccetera. Quindi, bello lungo, ambientazioni infinite. Infatti, c'è da girare, per dire, è talmente immenso che a volte per arrivare da un posto all'altro si usa il cosiddetto teletrasporto, se no non finisce più. Esatto. Va bene, allora Fabio, io ti ringrazio, ci risentiremo comunque il prossimo lunedì con il sorpresone finale. Okay. Grazie come sempre, buona Saluto settimana e buon lavoro. E allora finalmente possiamo aprire il nostro numero di SMS solo da ora. Tutti quelli che hanno scritto prima non li prendiamo in considerazione. 335-100-7777 per vincere il videogame Xbox 360. Il gioco si chiama appunto Viking. Calls her mama, I'm sure all the hand and I guess around. Action, big smile and a word, and I'm a man, a green spirit. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play show. Let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Black Rose, stop all'invio dei vostri SMS. Igor, il vincitore per questa giornata, la prima di questa settimana, quindi sino a venerdì avrete modo di vincere ascoltando il mio spazio mattutino dalle 9 alle 12 il videogame Viking per Xbox 360 che ritornerà domani. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Con uno dei loro tanti capolavori, questa God Only Knows, che lasciamo per il prossimo Tris, uno degli ultimi di questa mattinata, Elton John con John Lennon, gli Argent con God Gave Rock and Roll to You e poi Ozzy Osbourne con Mama I'm Coming On.

This is strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this home. Mama I'm coming on, Ozzy Osbourne, in precedenza gli Argent con la versione originale di God Gave Rock and Roll to You, che magari qualcuno conosce nell'interpretazione dei Kiss. Saluto Ivan e poi Alex Matteo da Lodi, Alex Matteo da Lodi e Carlos, saluti quindi anche a loro. Gli ultimi 40 minuti da trascorrere insieme sino alle ore 12, poi Claudia con voi, ma intanto in arrivo la voce femminile, non quella di Claudia, quella di Janis Joplin. In this world, if you read the papers, don't you know everybody's fighting on with each other. Yeah. sister and your mama tell. We're about to go down and you know just what to do. With your hands in the air like you don't care. Glide by the people as they start to look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance. Break your mama, come on baby, tell me what the word, oh, what up. Everybody say, when you hear them call, you got to get it on the way. What up, it's a call to word. No matter where you say it, you know that you'll be on the high. Suck a DJ, the thing to fly. It's got to be a reason, and we know the reason why. Why you put on those airs and you act real cool. Got to realize that you're acting like a fool. Dei Gun, poi sono arrivati anni dopo i Korn a rifare questa World Up, una delle prime cover rock di un gruppo funk che si chiamavano Cameo, e i Gun ne hanno rifatto una bella versione. Saluto Alberto da Viareggio, anch'io penso che non serva nulla quello che hai fatto, ma grazie lo stesso. Mentre Matteo mi chiede se abbiamo già regalato i biglietti per Tara Toulon. Io non conosco quest'artista, vabbè, capisco che hai sbagliato a scrivere, che è un po' incasinato. Claudio, come si chiama tu che l'hai intervistata? Turunen. Turunen, e il nome è Taria, e puoi anche farci il gorgheggio del suo sing. No, lo risparmio, lo tieni per l'ultima giornata quella. I Walk Alone, non niente? No, dopo una ragazzina sì, ci fa male. Infatti, allora niente. Però, caro Matteo, abbiamo capito che i biglietti di Tara Toulon non li ho regalati, forse li regala poi Claudio o io domattina. Claudia. Hai detto Claudio! Claudio? Hai detto Claudio! Infatti, è vero, ti è spuntato lì, ho detto Claudio.